Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Chi più spende, meglio spende. Me l'hai tolta di bocca, guarda. Dottore Spizzi, facciamo un invito. Ma piace spendere, mica risparmiare. Manager no, no, no, non ce la faccio. Diventiamo proprio imprenditori? Proviamoci, abbiamo un'idea brillante? Ma ce la facciamo venire. Hai voluto la casa? Adesso paghi. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Una vecchia mattonella per ballare tete a tete. Ti ho portato qualcosa di romantico, hai visto? Sei contenta? Qui al Cersaie ti sembra un'atmosfera adeguata? No, direi sì. Allora, a Bologna ci siamo, al Cersaie anche. Tra l'altro invitiamo gli amici a venirci a trovare, siamo allo stand 1, ci cadiamo proprio dentro. Sì. E direi che però sul tête-à-tête abbiamo molti amici qua, direi uno studio un po' affollato, però se vuoi dopo balliamo questo ballo. Vediamo. Della mattonella. Vediamo della vecchia mattonella. Allora, Deborah, sì. Sei un po' emozionata anche tu? Sono molto emozionata perché questa di oggi è una bella puntata, parliamo di uno dei temi certamente preferiti da parte dei nostri ascoltatori, la casa a 360 gradi, come farla diventare più bella. Noi cogliamo quest'anno l'occasione di essere qui al Cersaie per parlare appunto di questo argomento. Sappiamo che non sempre il bilancio delle nostre famiglie ci permette di fare grandi rivoluzioni nella nostra casa. Eppure tanti, magari poco a poco, ci tengono a rinnovare e a curare gli ambienti della propria abitazione. Quindi vi chiediamo, che cosa avete cambiato di recente? Siete soddisfatti? In alternativa, che cosa vorreste cambiare e quanto potete spendere? Pensiamo a tutta la casa, ma un'attenzione particolare, naturalmente essendo qui al Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredo Bagno, lo vogliamo dedicare proprio alle ceramiche. Qua in questo contesto ci sono assolutamente i prodotti migliori e più innovativi. Vi chiediamo anche, se volete, di fare una foto ad una mattonella del vostro bagno, di un vostro pavimento, di cui siete particolarmente fieri. Già ieri qualche ascoltatore lo ha fatto. Anche quella rotta, sbeccata. Ci piacciono anche quelle, così, così vissuta, si cambiano. Perché è vissuta. E quindi, se non potete fotografarle, descrivetecele, forma e colore e a che tipo di arredamento sono abbinate. Case che si trasformano come per magia, ma in realtà dietro ad un grande lavoro ci accompagna lei a scoprirle dagli schermi televisivi. Oggi e anche qui con noi, allora noi salutiamo, perché è un grande piacere averla con noi, Paola Marella. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Io felicissima di essere di nuovo al Cersaie come madrina dell'iniziativa Cersaie Disegnato a Casa. Una splendida madrina. Che grazie, che complimenti meravigliosi. Poi in uno dalle studio... donne. Dalle donne poi sono sempre sincere. Poi uno studio prevalentemente di donne, mi è pare vero, di sì. Capire. Quindi se non guardiamo dall'altra parte, abbiamo... non li guardiamo. Adesso fotografiamo anche il nostro studio, così lo condividiamo con i nostri ascoltatori. Allora, conduttrice televisiva molto nota, poi ricorderemo appunto tutte le trasmissioni, però è anche corretto dire che sei una professionista del settore della intermediazione immobiliare, no Paola? Quindi un po' sei qua un'addetta ai lavori, non solamente per ragioni televisive. Infatti nella mia vita vera, quello che dico sempre, nasco come intermediatrice immobiliare, soprattutto ho sempre lavorato nei cantieri, per cui meglio del Cersaie cosa c'è? È vero. Allora ricordo che appunto, per chi non ne ricordasse, che cosa ha fatto Paola Marella su Real Time, conduce una trasmissione di grande successo, Cerco casa disperatamente, poi Vendo casa disperatamente, Welcome Style, è uscito anche nel 2011 il suo libro Arredo casa disperatamente, e a tutto questo si è aggiunta Shopping Night Home Edition, che è ripresa ieri sera. Esattamente, con grande emozione, un'edizione poi veramente rivoluzionata. Una gara un po' per arredatori, possiamo brutalmente definirla. Quella così, è una gara per arredatori, ma d'altronde l'italiano si definisce l'arredatore perfetto, perché arrivano e si definiscono. finiscono i redattori perfetti, loro si definiscono. Ecco. Dopodiché, dopodiché li mettiamo alla prova e lì vediamo un po' delle situazioni al, al limite del comico. Allora, e se la nostra, scusa, ormai ti assorbiamo perché tutti gli ospiti che arrivano a Cuore Denaro diventano amici e io e dei banali così li rubiamo un po'. Allora, e se Paola Marella ci regalerà i suoi consigli per una ristrutturazione alla Cuore Denari, mi raccomando. Assolutamente. Nella seconda parte della trasmissione la parola chiave non sarà più ristrutturazione ma remise en forme, che un po' ci sta, no? Perché d'altra parte chi passando davanti a uno specchio non ha mai pensato che il suo fisico avesse bisogno di un po' di, non dico ritocco, ma insomma di rimettersi un po' in manutenzione straordinaria. La definirei, ecco, senza incentivi fiscali, ecco. Mettiamola giù così. Ordinaria, a volte straordinaria, ma noi puntiamo all'ordinaria, magari i muscoli che sono un pochino privi di tono, si rilasciano un po', linee un po' troppo ammorbidite, e allora nella seconda parte, a partire dalle 11.45, noi rimettiamo un po' in ordine la nostra linea, lo faremo proprio lavorando sulla muscolatura, cercheremo di capire che cosa piace ai nostri muscoli, di che cosa sono fatta, come allenarli, ma soprattutto coglieremo anche i segnali per capire quando l'allenamento è sbagliato e troppo eccessivo. Insomma, 800 24 00 24 per una remise en forme della vostra muscolatura. Luca, sei sicuro che non abbiamo sbagliato casa? Noi non abbiamo sbagliato salone perché al Cersaio dovevamo venire e ci siamo venute regolarmente. Allora, abbiamo anche un altro ospite. Sì, abbiamo un'altra ospite. Ecco, per questo Paola diceva uno studio al femminile. Salutiamo Rita Campana che completa un po' questo gineceo, architetto, esperta di progettazione di immobili residenziali nuovi o da ristrutturare, che qui a Cersaia è impegnata insieme ad altri professionisti in un'iniziativa molto interessante che si chiama Disegna la tua casa, perché proprio a Cersaia entri con un sogno e esci con un progetto. Tra l'altro ci ha raggiunto pochi minuti fa, ma già stamattina si è cimentata in almeno tre progetti? Sì, esatto. Siamo partiti subito, insomma, con le prime progettazioni. Innanzitutto buongiorno a te Deborah, a te Nicolette, buongiorno a tutti. Disegna la tua casa è un'iniziativa appunto di Cersaie che vuole avvicinarsi sempre di più al consumatore finale. E quindi siamo già alla terza edizione quest'anno all'interno del Salone Bolognese, dopo il debutto che c'è stato appunto nel 2012. E che è nato, tra l'altro, in questi tre anni appunto è stata un'iniziativa che è data molto bene. Quest'anno siamo arrivati addirittura al doppio delle testate del 2012 ed è un modo per il consumatore di avvicinarsi, un po' di avere i primi consigli per muovere i primi passi all'interno di una ristrutturazione o di un acquisto di un nuovo immobile. Perché ci si avvicina generalmente in maniera un po' light, ingenua. Sì, in maniera un po' leggera appunto, un po' in confusione, quindi diciamo che è un primo approccio per avere le idee un pochino più chiare, poi chiaramente dopo segue tutto, deve seguire tutto un percorso un po' più complicato, però. Voglio fare un commento con Paola Marella un po' sull'andamento del mercato immobiliare, perché è strettamente legato naturalmente al tema di cui parliamo questa mattina. Ristrutturiamo molto in Italia perché abbiamo un patrimonio edilizio non propriamente nuovo, per cui abbiamo bisogno anche un po' di rifare il look alle nostre case, ristrutturarle da cima a fondo. In un contesto appunto del mercato immobiliare che non è brillantissimo in questo momento, abbiamo visto un top delle compravendite qualche anno fa, adesso sono dimezzate rispetto ai massimi, più che dimezzate. Dal tuo punto di vista, un po', che entri spesso nelle case degli italiani, qual è la sensazione che hai sullo stato di salute del mattone italiano, del real estate italiano? Sicuramente la situazione delle case degli italiani è una situazione un po' come quella dei monumenti italiani, cioè che purtroppo c'è questa tendenza a non avere una manutenzione costante, che secondo me, io dico sempre, è la prima regola, cioè la manutenzione ordinaria, un pezzettino alla volta di un immobile, che può essere un anno, non so, ti si rompono le persiane, magari incomincio a metterne a posto due, piuttosto, cioè programmare, piuttosto che la caldaia, devo cambiarla, cioè, ovviamente programmando, perché sono spese che incidono molto, l'architetto lo sa molto bene, incidono molto sulla famiglia, bisogna cercare di programmarle ma renderle costanti, se no ti ritrovi poi nel momento di una vendita con certo. delle situazioni che ovviamente in una fase come questa così mm-hmm. delicata e così difficile rendono un immobile certo. particolarmente. Perché naturalmente bisogna anche vedere l'obiettivo che si ha, se la casa la si vuole abitare, magari le scelte che si fanno sono... Io ho fatto una scelta diversa, ho comprato una casa 10 anni fa, fino a quando non sono stata pronta economicamente non l'ho ristrutturata, ho fatto una scelta diversa, quindi Ottimo. Mi colpiva molto questo ragionamento. Sì, allora tu hai fatto una scelta di ristrutturarla perché giustamente quello che stavo dicendo era... È casa tua, è una casa che comunque giustamente hai affrontato a seconda delle tue possibilità ed è molto giusto fare così. Però quando tu hai una casa e adesso tu vivi questa casa che probabilmente hai ristrutturato, ma magari adesso quello che io ti dico è cerca di mantenerla, per cui certo. non lasciare che, come dicevamo prima, la remise in fondo, non lasciare che proprio che la casa caschi a pezzi. Non vivere sugli allori, su dei... Esatto, ma guarda bene che cosa sta accadendo. No, ancora la ginnastica. C'è gente che arriva in palestra e pensa che andando a maggio in palestra per agosto una è perfetta. Vedi? Invece io sono una sostenitrice della palestra sempre. Io da quando ho 15 anni. Anche noi ancora. Infatti voglio dire che Paola i risultati si vedono. Ma grazie. È quello che noi cerchiamo di dire tutti i giorni a Cuore Denari. La salute poco a poco, la prevenzione. Ogni giorno non te ne accorgi neanche e la vita ha più gusto E la casa lo stesso. E allora però io vorrei tornare al nostro architetto Campana, perché siamo in questo salone internazionale magnifico per l'architettura, per l'arredo bagno. Parliamo quindi dei materiali più belli, quelli che danno anche un po' lustro alle nostre case, no? Quando tu entri a casa degli amici e poi magari vai in bagno a lavarti le mani, dal dettagli che ci sono in bagno o anche soprattutto anche dalla cucina capisci un qualche cosa di più, la cura nei confronti della casa o come vivono anche un po' quella casa. Allora io vorrei chiedere a lei, che è un'esperta del settore, che cosa cercano di più gli italiani e soprattutto che cosa offre l'industria in questo momento? Ci sono delle novità, magari delle nuove tendenze, ci sono anche delle curiosità, che cosa c'è? Ci racconti qualche chicca? Un pochino. Perché io sto per comprare casa per le mie ragazze. Versa la son. Tutto, esatto. E qui, che fortunate le ragazze. Esatto. Sì. È vero. Devo dire di sì, soprattutto ad avere una mamma come me, ma loro dicono di no. Comunque va bene. Chiudiamo, va bene. Poi apriremo proprio va bene. Di commedia, facciamo poi ne dedicheremo una puntata. Paola, allora, puntata che cosa c'è di intrigante? Allora, intanto diciamo che in generale le persone cercano un materiale che coniughi bene estetica ma anche praticità, perché le nostre case devono essere belle, però devono certo. anche avere una manutenzione, come diceva anche Paola, costante, quindi pratica. Sì. Quindi quello che si cerca è appunto magari il prodotto un po' particolare, però con caratteristiche tecniche ottime, quindi, e qui al Cersaia devo dire che ne abbiamo veramente di tutti i tipi. Quest'anno la tendenza, accanto a quello che già si vedeva negli anni scorsi, quindi materiali che riproducono marmi, pietre, cose di questo tipo, ci sono anche ceramiche molto caratterizzate, quindi colori molto forti, grafiche pop art, addirittura alcuni hanno riprodotto sulla piastrella la grafica dei fumetti vintage. Questa è una cosa un po' più particolare, più interessante. Ma osano poi, a parte queste disponibilità, come diceva Nicoletta, che l'industria mette a disposizione, poi il consumatore finale osa fino a questo punto? Sì, c'è qualcuno che osa, non tutti. Diciamo che molte di queste piastrelle in realtà sono più un esperimento grafico, estetico, che l'azienda vuole proporre. Sì. Poi sicuramente c'è perché il consumatore, esatto. Vederteli lì tutti i giorni, Paola. Sì. Poi c'è il consumatore magari che è particolarmente appassionato e allora se lo mette in casa, però chiaramente sono più per una nicchia. Allora, 800 24 00 24, venite a trovarci chiamandoci, naturalmente intervenendo in trasmissione. Noi comunque siamo qui, se volete venire a baciarci e a salutarci, come avete fatto, come siamo felici. Soprattutto vogliamo sentire le vostre domande, sapere come, se avete intenzione di ristrutturare un po' la vostra casa. Esatto, ma siete un po' incerti magari fra un materiale rispetto ad un altro, perché per esempio raccontavo prima all'architetto Campana che quando io ho ristrutturato la mia avrei voluto mettere la resina ovunque, che è anche un po' costosina. Sì, un pochino. E il mio architetto mi ha smontato in tutto. E però Rita prima mi diceva: se ci fossi stata io ti avrei accontentata, hai visto? Perché a me la resina poi piace moltissimo. Io devo tra dire l'altro che il materiale è, no, perché anche questo, come dire, è una componente abbastanza innovativa, no? Che sì, troviamo sì, solo da pochi anni. In realtà sì, è già nel mercato da alcuni anni, però devo dire che si sta diffondendo pian piano, perché ancora il consumatore finale l'ha vista poco applicata e quindi insomma deve ancora un po' farci l'occhio. Ecco. Però quanto costa, tra l'altro, perché qua la donna di Denari deve sempre inzigare, come si dice in gergo non tanto finanziario. Allora anche qui c'è un range a seconda naturalmente del tipo di resina, però diciamo che si partono da circa un 80 euro al metro quadro, quindi comunque se abbiamo delle ampie superfici naturalmente si sente. Benissimo. Il costo. Senti Paola, tu che giri un po' nelle case degli italiani, mi racconti, io ho ben chiaro che cosa si muove dentro di me adesso che siamo prossimi all'acquisto della casa per le ragazze, ma che cosa ti colpisce di più quando incontri una coppia, una persona che vuole vendere o comprare? Quali sono i dubbi, le paure, i timori più frequenti? Di sbagliare casa, di spendere troppo? In questo momento il problema denaro è in assoluto certo. Il primo problema, per cui inutile dirlo, ovviamente vogliono. In questo momento poi con la crisi vogliono spendere poco e pensano che comunque il prezzo a cui viene offerto l'immobile sia troppo alto. Per cui a prescindere tendono a fare una trattativa che di solito fa oltretutto molto male all'immobile, ma al di là di tutto questo, che è purtroppo molto contingente visto il periodo, quello che cercano. No, ormai sono molto preparati, per cui hanno un'idea di una, non so, il riscontro, l'aria, il doppio affaccio, il piano, ascensori, spese condominiali, cioè c'è tutta una situazione che, per cui loro arrivano che sanno già cosa vogliono, e anche perché adesso essendoci tanta offerta, loro, l'acquirente sa benissimo, ahimè, che può girare e cercare quanto certo. più possibile di trovare quello che poi non è così. Beh, assolutamente, io lo dico sempre, io parto sempre da un presupposto che tu quando entri in una casa devi sentirla, è un po' come l'uomo della vita, la donna della vita, cioè c'è quell'idea, quella sensazione che tu hai a prescindere. Quel feeling, che sia chimica. Tutto bello, alto, basso, magro, cioè, la stessa cosa per la casa, quindi tu devi innanzitutto avere questa sensazione che deve essere proprio l'empatia entrando. Quindi non facciamo sì che uno debba vedere 30 case, 40 case, 50 case, se tu alla terza casa hai una sensazione di casa, di amore, di colpo di fulmine, fermati, ragiona e approccia quello. Adesso c'è grande confusione, ci si perde col rischio di fare dei grandi pasticci. Ecco, questo io lo riscontro molto in questo momento. Anche perché credo che se tu hai, non lo so, Nicoletta, tu per le tue ragazze cercavi un'abitazione in un determinato punto di Milano, no? Cioè andarne a cercare 30 e poi spostarsi in posti diversi della città, quando poi magari stare in un determinato punto non ti servirà perché sarà scomodo, quindi credo che poi tante volte anche il prezzo lo faccia, come dire, lo faccia questo aspetto, no? Comprare la casa dove ti serve, dove ci sono le scuole dei tuoi figli. Io dico sempre, quando si acquista la casa, lo consiglio di solito a chi, i miei clienti, agli amici, eccetera, quando si compra la casa devi scindere le cose. Allora, la compri per i tuoi figli, benissimo, i tuoi figli ci abiteranno per un po' di tempo, bene, puoi anche pagarla qualcosina in più. Però appunto ha tutte le caratteristiche, zona, piano, materiali, eccetera. Invece compri una casa, però sai che fra 5 anni potrebbero trasferirti, magari, oppure chissà, magari ho l'età per cui mi devo sposare, quella casa diventerebbe piccola, oppure chissà, cioè sì, devi prendere, allora naturalmente devi stare molto attento alla possibilità che tu abbia nel giro di 5 anni, 6 anni, 10 anni, di rivenderla, e comunque a quel punto devi tenere in considerazione delle caratteristiche che rendono il bene facilmente commerciale. Brava, poi magari andremo anche con qualche dettaglio in più su questo aspetto che è importante. Guarda un po' abbiamo Francesco che ci chiama da Salerno, non è potuto venirci a trovare. Persone, allora ci ha chiamato. Bella idea, Francesco, buongiorno. Salve, buongiorno a lei. Ci dica. Niente, io volevo un consiglio per quanto riguardava la ristrutturazione di l'ingresso. Sì. Avevo pensato di mettere delle mattonelle effetto pietra sulle mura, attaccate alle mura nell'entrata. Sì. volevo sapere se c'era qualche altra idea disponibile. Mi sembra il minimo attaccarle alle mura, perché le piastrelle sì, così vabbè, un po' volanti forse non sono troppo. No, poteva essere anche sul pavimento, sul soffitto, per fare un'entrata di pietra. Allora, le nostre esperte sì, quindi... no, aspetta, la domanda, vediamo qual è la domanda. Francesco, come... voleva sapere se è una buona idea. Ha comprato, è una buona idea, se c'era qualcosa di alternativo da poter alternare alla pittura, ecco. Ah, ecco, perché lui non vuole fare, come dire, un ingresso vuole dipinto così banalmente. E per terra cos'ha? Francesco, a terra c'ho il marmo. Marmo. Cuore e denari. Al Cersai oggi, Cuore Denari a Bologna, al Salone Internazionale della Ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno. Per chi volesse venire a trovarci, l'invito naturalmente è aperto ai fan di Cuore Denari. Siamo allo stand 1, fate due passi, raggiungeteci per la nostra felicità ma anche per quella dei vostri muscoli. Iniziate un po' a scaldarli, perché di loro parleremo nella seconda parte della trasmissione. Madre Natura ce li fornisce in numero uguale, ma c'è chi li fa fruttare di più, chi meno, c'è chi li allena, chi li tiene a riposo, chi li usa tutti, chi solo alcune, chi li mostra, chi li nasconde, ma oggi tutti possono avere indicazione per prendersene cura e per mantenerli sani e forti. Allora, per muscoli tonici e scattanti, per una ristrutturazione muscolare come quella che stiamo facendo anche per le nostre case grazie all'aiuto delle nostre esperte, 800 24 00 24. Guancia, guancia, io ti dico, che ti amo, tu mi dici, che son bella, dondolando sulla stessa mattonella, no, non essere geloso, siccome gli altri parlo a questo. È la mattonella, la grande protagonista di questo salone, sarebbe più corretto dire, insomma, la ceramica. Dobbiamo rispondere, Nicoletta, al quesito, così alla richiesta di aiuto di Francesco da Salerno, che così ci ha impegnato un po' in questo studio del suo ingresso virtuale. Mattonelle da mettere sulle pareti, marmo a terra. Tonella, cioè la ceramica dalle pareti, assolutamente, abbiamo un bel marmo, penso, per terra, per cui adesso non abbiamo chiesto che gradazione, che colore, ma farei un effetto scatola con un bel colore, effetto scatola nel senso che dipingerei sia le pareti verticali dove mettiamo invece delle mattonelle un bel colore, e anche il soffitto, quindi un bel effetto scatola con una bella illuminazione. Abbiamo un ingresso d'autore con grande personalità e magari risparmiamo anche un po'. Esatto. Paola, volevo farti una domanda relativamente un po' al tuo impegno anche come agente immobiliare, che è quello primario, poi dopo c'è naturalmente anche questo momento prestato all'avventura televisiva. Mi chiedevo oggi se è cambiata anche questa professione in termini di consulenza al possibile, al futuro proprietario immobiliare, no? Oggi non siete più solamente quei professionisti che finalizzano una compravendita, ma davvero siete chiamati a fare una consulenza a 360 gradi. Usiamo il condizionale, perché dovremmo, e io mi batto su questo da tanto tempo, perché secondo me l'agente immobiliare, io lo devo dire, purtroppo, ahimè, ancora a volte abbiamo degli episodi che danno un po' una limitazione alla nostra professione. Ma al di là di tutto questo, secondo me la crisi un pochino di pulizia, chiamiamola così, per utilizzare un brutto termine, sicuramente l'ha fatta, e sicuramente l'agente immobiliare deve dare, secondo me deve, un servizio a 360 gradi, il che vuol dire anche dare il consiglio. Io adesso il discorso dell'home staging è un discorso che andrebbe un pochino sviluppato. Io lo dico sempre, è qualcosa che bisognerebbe aggiungere qualche ora nel famoso corso che si fa per il patentino, perché secondo me è determinante avere un'idea vaga, però averla di quello che si può fare per migliorare, per fare una piccola rimessa in forma di un appartamento e renderlo appetibile, certo, soprattutto in momenti come questi dove è difficile vendere. Allora, un quesito per l'avvocato, sì, per l'avvocato, per l'architetto Campana, non abbiamo avvocato. Non l'abbiamo ma, neanche chiamata. Ma magari qualcuno è passato. Dottor Colesterolo. Perché noi ci siamo cimentate nel chiamare i nostri ospiti in ogni modo. Riccardo da Parma, quindi Riccardo, perché non ci è venuto a trovare? Perché purtroppo insegno, quindi non ho il tempo di venire da voi. Mannaggia, ci dica. Niente, la mia domanda riguarda la qualità dei materiali, soprattutto nelle mattonelle. Io sono un appassionato, forse un maniaco, dell'isolamento termico, quindi visto che ho isolato praticamente la parte murale della mia casa schiera, ma il bagno, appunto, non potendo fare un cappotto esterno, chiedevo se c'era la possibilità, e vengo alla mia domanda, di avere delle mattonelle che abbiano un coefficiente di coibentazione, di isolamento, superiore a quello che è nelle ceramiche Riccardo, tradizionali. Però anche, sì, però anche lei la vuole cotta, la vuole cruda, e qua mi pare che sia veramente un uomo. Domandare è lecito. Bravo Riccardo, la stiamo un po' affettuosamente prendendo in giro, però. E la nostra ospite, la nostra professionista, l'architetto Campana, magari ha una soluzione da suggerire. Guardi Riccardo, se non è stato possibile fare un cappotto esterno, potrebbe pensare a un discorso di cappotto interno, nel senso che è chiaro che una la vestaglia. Ceramica, sì, una mini vestaglia, è chiaro che la ceramica può isolare, però insomma lo spessore che le può dare l'applicazione di un cappotto è tutt'altra cosa. Certo. Mi raccomando, faccia solo attenzione al discorso del cappotto interno, ad utilizzare materiali naturali e traspiranti, perché sennò si può creare della condensa. Dopo che ha creato il suo strato di cappotto, allora ci può applicare sopra qualsiasi tipo di ceramica. Ecco qua. Va bene, stavi pensando alle ceramiche. Stavo pensando alle ceramiche, sì. Proviamo però a fare un po' di conti, perché mi meraviglio che la donna di Denari non abbia detto, insomma, salcusta, come dicono a Milano. Devo chiedere quanto costa la coibentazione? Sì, anche prima ancora della coibentazione parliamo proprio di piastrello, metro quadro di piastrelle. Mi fa degli esempi? Che prezzo viaggiamo qui al Cersaie? Allora, i range sono veramente enormi, esatto, cioè è difficilissimo definire un costo. Diciamo che se vogliamo proprio partire dal basso, però avendo comunque un prodotto di una buona qualità, stiamo parlando però sempre di fondi, che significa quindi la piastrella liscia, semplice, senza decori, senza mosaici. Diciamo che potremmo partire dai 25 euro in su, però stiamo appunto parlando del basic. Quindi diciamo che per un bagno più o meno di 6 metri quadri, per pavimento e rivestimento arriviamo intorno ai 670 euro di rivestimenti, e stiamo sempre parlando appunto di una cosa basic, senza decori, senza mosaici. L'oligarca russo che cosa si metterebbe in casa, se sicuramente potesse? Mosaico d'oro massiccio. Ciò di sicuro, che ci sono anche molto belli, però naturalmente nelle nostre case forse è il caso di applicarli con molta parsimonia. Che poi magari stufano, no Paola? Sì, sì. Cosa dici? Noi non lo prendiamo, perché poi alla fine sono un po' troppo. Io ho sentito parlare anche di piastrelle fatte con un materiale antibatterico, esatto. È vero? Esatto. Sono piastrelle antibatteriche, praticamente funzionano in questo modo: quando la superficie della piastrella viene a contatto con i batteri, blocca il ciclo vitale del batterio, quindi evita la proliferazione all'interno del nostro. Ma di che materiale è fatto? Perché ha questa capacità? La ceramica è sempre il grès porcellanato, però durante la fase di lavorazione ad elevate temperature vengono introdotte o del biossido di titanio, nel caso dell'utilizzo di un fotocatalizzatore, o di nanoparticelle di argento. Ma queste non sono piastrelle che si mettono in ambienti che hanno bisogno di una piastrella di questo tipo? L'ospedale, possono essere messi dappertutto, sono utilissime naturalmente in ambienti tipo piscine, esatto, dove ci siano necessità particolari, anche in casa possono essere utilizzate. Mi rifiuto che diciate voi una cosa del genere. Cos'è che mi è sfuggito? Anche in bagno, ho detto. No, la piastrella antibatterica non la puoi accettare. Ma no, non la posso accettare. Olio di gomito. Olio di gomito e poi grande, ma ripetuto. Ripetuto, ecco. Certo. No, olio, ripetuto. Parliamo di plurale, olio di gomiti. hai ragione. Tranne quando c'è il singolare, mi... No, era un singolare no. maestato. Però piscine, spogliatoie, sì, ospedali. Ospedali, piscine, sì, sì. Spogliatoie. Allora, sì. Sono le 11.46, Nicoletta. Qui dobbiamo prendere una decisione. Mandare il traffico, salutare Paola perché deve assolutamente andare, ci sta guardando disperatamente. Ecco, esatto, stanno portandola via perché la portano via. Se la contendono in molti. Grazie Paola, grazie, Marella. Grazie a tutti, per tutto. Complimenti e grazie per avermi invitato. Grazie. Buona casa a tutti, naturalmente. E adesso un bellissimo giro da Cersaia. Ottimo, buon lavoro. Grazie. Allora, sì. Però noi abbiamo allora le strade, sì, poi abbiamo Loredana da Torino, allora la traghettiamo dopo e rispondiamo anche. L'architetto promosso avvocato Campana rimane ancora con noi per qualche minuto per rispondere a Loredana, a cui anticipo già si spaccano le mattonelle e dobbiamo cercare un modo per ricomporre questo mosaico involontario. Cuore e denari. Allora, avevamo promesso a Loredana da Torino che l'avremmo sentita con l'ultima domanda per quello che riguarda, tra virgolette, la parte cuore, ma abbiamo visto che stamattina la casa, l'arredamento, il materiale è proprio un argomento tipico cuore denari, no? Sì, che gli italiani hanno a cuore, anche gli ascoltatori di Radio 24. Esatto. Loredana, buongiorno, rapida se ce la fa perché poi dobbiamo passare alla seconda parte. Benvenuta. Buongiorno a tutti voi, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno a tutti voi. Sentiamo. Io ho il telefono perché ho una sala con il soffitto a volta di mattoni a vista rosso scuro e una pavimentazione di piastrelle 45x45 con una via di fuga piuttosto larga, bianche con delle venature grigie che adesso si stanno spaccando, quindi mi si sta sollevando il pavimento. Come mai? Ma che è successo? Che c'è stata qualche infiltrazione? Che cosa può essere che è successo, Loredana, se c'è un fatto scatenante? Probabilmente non l'ho messo io questo pavimento, ma i precedenti proprietari probabilmente non è stato livellato bene la base. Le ho trovate cosa così. Si può fare quindi? Lei dice, le vuole sostituire o coprire? Sostituire è più che altro anche un consiglio estetico, perché con la volta di mattoni rossi ho il timore di sbagliare la scelta e poi trovarmi con Lega un po', architetto, ragione. Grazie Loredana, architetto Campana. Guardi Loredana, intanto se le piastrelle si stanno rompendo vuol dire che quasi sicuramente, sempre che sia un prodotto naturalmente di una buona qualità, è il sottofondo che è carente, è il sottofondo che viene applicato prima naturalmente della posa delle piastrelle, quindi le consiglierei comunque di non coprire ma di rifare, perché se è il sottofondo che ha dei problemi, nel momento in cui lei copre, questo ritorna. Cede di nuovo e lei ha di nuovo questi problemi di spaccatura. Quindi rifare il sottofondo, togliere tutto quello che c'è adesso e riposare. Per quanto riguarda il tipo di prodotto da scegliere, io le consiglierei, guardi, di farsi dare alcuni campioni, di restare magari su un grigio beige, ma una tonalità comunque abbastanza tenue. Non scelga delle piastrelle troppo caratterizzate, perché andrebbero a cozzare un po' con comunque il mattone a vista, che è già abbastanza... Sì, un po' molto bello, ma più impegnativo. Quindi le consiglio di farsi dare qualche campione, eventualmente di portarlo proprio nella sala e di accostarlo alla sua prenda volta. Tutto il tempo che è necessario per fare questo investimento, perché poi è impegnativo anche quando ti smontano tutta la casa per fare un lavoro, Nicoletta. Un'altra bella gatta da pelare, anche perché se ci si abita. Vedi, tanto io se faccio dei lavori vengo da te, mi trasferisco con Carlo, il mio cane, perché ormai le ragazze ricordo sempre che la metratura di casa mia non è... adeguata, però gli amici si vedono nel momento del bisogno. Architetto Campana, grazie molte per essere stata con noi. Peraltro noi abbiamo anche una guida, anzi magari ce ne portiamo un po' a Milano e le regaliamo ai nostri ascoltatori. Ceramica Amica, conoscere la ceramica italiana per utilizzarla al meglio delle sue potenzialità. Se andate sul sito appunto di Cersaie, forse si trova qua, adesso diamo qualche informazione più corretta. Soprattutto ci sono tutti riassunti sulle agevolazioni fiscali, sulle ristrutturazioni immobiliari per quest'anno, per l'anno prossimo e di questi tempi, insomma un po' di risparmio mi sembra che sia assolutamente, assolutamente necessario. Ottimo, grazie ancora, buon lavoro, buona giornata. Grazie. Ci vuole un fisico bestiale, allora mi devo arrabbiare. Se ti fa piacere. Che muscoli, sei una treta. Certe volte il mio primo set di pesi. I pesi che ti hanno trasformato da un pappamolle bavarese in una massa di muscoli pulsanti. Anche per bere perfumo. Sì. Undici. 12. Sapete, ragazzi, riesco a farne il doppio di quando ho cominciato. E guardate che addominali. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli ulti della... E allora, ci occupiamo di un altro tipo di ristrutturazione, Deborah? Sì. Ma prima bisogna fare un altro tipo di sopralluogo, forse, per capire di che tipo di intervento c'è bisogno. Che dobbiamo fare? Hai sentito l'architetto che ha detto del fondo, che le piastrelle saltavano se non c'era il fondo, e quindi doveva togliere tutte le piastrelle e rifarle. Ma insomma, per la remise in forma che hai tanto preannunciato, dobbiamo fare la stessa cosa? Allora, se noi dobbiamo rifare il pavimento, guardiamo il pavimento. Se noi dobbiamo ristrutturare i muscoli, che cosa facciamo? Ci diamo un'occhiata allo specchio, ci mettiamo a piangere e poi basta. Guardiamo i nostri muscoli, cerchiamoli, perché a volte non si vedono, ma ci sono, ce li abbiamo tutti, e soprattutto qua in studio con noi è arrivato il nostro esperto, il... Ottimo. Devo dire, dottore o professore? Ma possono essere impiegati entrambi, io preferisco dottore. Allora, e questa mi piace, il dottor Arrigo Cicero, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna, con lui giochiamo in casa. Allora, per fare le cose per bene bisogna iniziare dalle fondamenta. Sì, abbiamo capito anche dagli interventi delle nostre esperte a cui abbiamo affidato la ristrutturazione delle nostre case. Dai mattoni, o meglio, io direi dai mattoncini, che costituiscono i nostri muscoli, perché anche il nostro organismo ha mattoncini. Dottore. Allora, buongiorno a tutti. Sicuramente l'idea del mattone equiparato alla unità strutturale del nostro organismo è qualcosa di importante. Come d'altronde mi piace un po' la distinzione fra l'idea del rinfrescare la casa, ovvero il nostro corpo, rispetto al ricostruire, che nel nostro caso è molto più complesso, per cui l'idea è della manutenzione ordinaria, devo dire che si applica in maniera molto molto geniale anche al nostro organismo. Vedi, Deborah, che l'avevi detta giusta. Brava. Cuore e denari. Trapezio, grande sale, piccolo rotondo, sterno, clero, mazzagallo, flessore, sensore, pronatore, grande psoas, brachiale, mediale, deltoide, pettorale. Siamo tornati, oggi parola d'ordine, ristrutturazione, che tradotto nella lingua della salute si dice remise en forme. Ci siamo lasciati un po' contagiare, Deborah, dall'atmosfera. Sì. Del Cersaie, che ci ospita in questa occasione il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredobagno. Vogliamo invitare i nostri amici a venirci a trovare? 800 24 00 24, naturalmente adesso per questa remise en forme 2.0, quella del nostro corpo, ti piace così piuttosto che quella della nostra casa. Se venite a trovarci allo stand 1 troverete anche il dottor Cicero, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna, che ci sta aiutando a capire i gusti dei nostri muscoli. Li dobbiamo nutrire, dobbiamo anche farli muovere. Allora, facciamo un sopralluogo. I muscoli di che cosa sono fatti e che cosa piace ai nostri muscoli? I muscoli sono fatti fondamentalmente di proteine, e di proteine hanno bisogno per mantenere la loro tonicità. Ovviamente questo associato al fatto che il muscolo deve essere utilizzato. Il muscolo inutilizzato può essere nutrito quanto vuole, ma in realtà fondamentalmente rimarrà sempre il muscolo che se uno non lo apprezza come tale, se lo terrà come tale. Certo. E quindi l'importante è scegliere anche una qualità delle proteine. Bravo. E qua l'argomento è caldo, è perché bravo. Proteine, cioè, allora parliamo di proteine che si trovano animali, pesce, che si trovano nella carne, poi uova, formaggi, legumi, ma le fonti di proteine, lo sappiamo, non sono solo queste. Sfatiamo questo luogo comune, si pensa sempre poi che ci siano proteine di serie A e proteine di serie B. Ai nostri muscoli che tipo di proteine piacciono, di che cosa hanno bisogno? Vogliamo iniziare proprio da questo passo. Sì. Passo fondamentale, perché se non sai che cosa scegliere in realtà hai già sbagliato probabilmente la strategia globale. E quindi in realtà la cosa che bisogna chiarire fondamentalmente in prima battuta è che non esistono proteine di serie A o proteine di serie B, esistono alimenti che contengono proteine di maggior o minore qualità biologica. Cosa vuol dire qualità biologica? Fondamentalmente una proteina è tanto più importante per il nostro corpo quanto le sue componenti, gli amminoacidi, che sono i sottomattoncini, se vogliamo, sono amminoacidi che noi non possiamo produrre nel nostro corpo. Certo. Il nostro corpo è in grado di produrre una buona parte di amminoacidi, alcuni non riesce. Mm-hmm. Allora, mangiare alimenti carichi di tante proteine, che contengono pochi mattoncini essenziali, non servono assolutamente a niente, se non forse sono dannose per l'organismo. Mangiare tante proteine o poche proteine che contengono tanti mattoncini essenziali, in realtà garantiscono in poco volume sicuramente un grande vantaggio. Parliamo anche della quantità. Ecco, la quantità è un concetto molto relativo, nel senso che prima di tutto va calibrata sulla mole di attività fisica che uno fa. E lì. E quindi questo è un primo concetto. Il secondo concetto dipende anche dalla varietà della dieta che uno fa, perché se uno ha tante fonti proteiche che possono essere anche meno, non necessariamente carne, ma possono essere appunto legate al mondo vegetale, in particolare ai legumi e quant'altro, se ha un ampio spettro di alimenti nella propria alimentazione, sicuramente ne può mangiare globalmente una quantità minore. Ribadisco, la cosa importante è la qualità, dove io ho tanti mattoncini essenziali anche in poche proteine. C'è un alimento che aiuta a metabolizzare le proteine, vero, dottor Cicero? Cioè, per essere metabolizzate le proteine hanno bisogno di un ingrediente, che si dice che sia l'acqua, no? Per cui oltre a mangiare dobbiamo anche bere. Questo sicuramente, ma il fatto di bere molta acqua, soprattutto per chi ha una dieta tendenzialmente iperproteica o fa supplementazione non necessariamente bilanciata di proteine, serve anche per aiutare il rene a smaltire il carico delle scorie derivate dall'eccesso di proteine. C'è questo assist perfetto per commentare un po' queste diete iperproteiche che sono di gran moda, adesso senza citare chi le promuove, no? Ma a prescindere da questo, magari anche qualche sportivo, dottore, segue l'alimentazione di questo tipo. Infatti il concetto della dieta iperproteica è stato un po' distrutto nelle sue potenziali qualità anche terapeutiche in tempi recenti, perché il problema è stato un travisare un concetto base. La dieta cosiddetta iperproteica che fa bene è la dieta relativamente iperproteica, tradotto in altri termini: io mangio la quantità di proteine che mangerei normalmente, ma riduco il resto delle calorie. Quindi in realtà non diventa iperproteica in assoluto, ma relativamente al fatto che tolgo altre calorie dalla dieta. Quella è una dieta che, se uno ha necessità di calare rapidamente di peso senza avere poi un cedimento strutturale, diciamo, dei muscoli, della pelle, dell'estetica, anche senso lato, è un qualche cosa che si può, entro certi limiti temporali, quindi consigliare. Quindi mangi le stesse proteine che mangiavi prima, quando non eri a dieta, però togli tutto il resto, che sono pasta, riso. Esatto. E quindi per un certo periodo si può fare senza danni per la salute. Ma un certo periodo è quello che a me fa sempre paura, perché quando poi qualcosa funziona, allora si tende a esagerare e quindi poi i danni si vedono. Oppure, a parte l'esagerazione, poi quando si ritorna all'alimentazione regolare, chiamiamola così, equilibrata con tutti i componenti, si riconquista tutto quello che si era perso. Un po' l'effetto yo-yo. Sì, allora diciamo che l'idea base è quella che questo tipo di indicazione normalmente fornisce il massimo dei risultati entro 2 mesi, per cui non ha molto senso che uno le prolunghi per tempi più lunghi. Il secondo punto da tenere presente è che normalmente dovrebbero essere utilizzate da persone che ne hanno realmente bisogno, che significa persone che normalmente fanno una dieta squilibrata, hanno acquisito molto peso eccessivo in tempi relativamente ristretti e quindi hanno bisogno di recuperare. In queste persone, se ritornano a una dieta equilibrata e quindi non squilibrata come quella di prima, in realtà l'effetto yo-yo è molto molto ridotto. Viceversa, la cosa che dobbiamo tentare di evitare è che la ragazza giovane che magari ha 2-3 kg in più e che si sente un mostro per avere 2-3 kg in più, che non necessariamente hanno chissà quale danno estetico, possono essere anche carina, esatto. E in realtà, spaventata da questa cosa, si portino a fare diete estreme di questo tipo, totalmente non richieste, non necessarie, e questo può portare in realtà a un danno. Allora, noi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori di dare un giudizio sullo stato del loro muscolo. Lei potete dare un voto da 0 a 5, usare un'immagine di un personaggio, da Woody Allen a Rocky, o una metafora. Scegliete, insomma, voi quello che più vi piace e utilizzando il muscolo flessore, che è un muscolo flessore questo, dottor, dell'indice 800 24 00 24, perché oltre a nutrirli Cercheremo anche di capire i segnali che i nostri muscoli ci mandano. Parleremo soprattutto anche dei muscoli degli sportivi, che per potenziare questi muscoli, per renderli efficaci, tonici, rombanti, sono spesso disposti anche a esagerare o con l'allenamento o con il nutrimento. E intanto noi, nell'attesa delle vostre telefonate, che ne accogliamo una che è già arrivata. Brava. Che magari possiamo anche far cimentare Vittoria da Milano in una descrizione di se stessa dal punto di vista muscolare. Vittoria, buongiorno. Buongiorno. Ci siamo, benvenuta. Grazie a voi. La sentiamo un po' malino, dove sta? Come? No, niente, no. Vittoria, dobbiamo riprendere questa telefonata perché qualitativamente non va bene. Allora, intanto che aspettiamo l'intervento dei nostri ascoltatori al nostro numero verde, dottore, noi di muscoli ne abbiamo tanti, alcuni non sappiamo neanche di averli e sono molto diversi, anche nella risposta all'allenamento, alcuni rispondono bene, diventano tonici, ben definiti, guizzanti, altri sono un po' restii, allora proviamo a immaginarli un po' come allievi di una stessa classe. Ci sono quelli che rispondono e danno grande soddisfazione, altri che invece hanno bisogno un pochino di più tempo, di essere più stimolati, coinvolti. Allora, chiamiamoli un po' all'appello, un po' li conosciamo, no? Sì. E si dividono un po', uomini e donne hanno muscoli diversi che rispondono. Sì, ma sì, diciamo che in prima battuta c'è da dire che vi può essere anche una buona quota di buona sorte o cattiva sorte che ci può affliggere, nel senso che abbiamo dalla nascita ci sono soggetti più o meno predisposti a sviluppare massa muscolare in alcuni distretti piuttosto che in altri, ci sono alcune masse muscolari particolarmente definite da un punto di vista se vogliamo anche genetico, per esempio ci sono persone che per quanto possano fare 2000 esercizi di tonificazione degli addominali non svilupperanno mai la famosa tartaruga. Terranno la tartaruga rovesciata. Esatto. Concettualmente posso, sì. Tartaruga, posso descrivermi in questa situazione? E un altro muscolo molto molto personalizzato da questo punto di vista è il muscolo del polpaccio. Abbiamo donne che si odiano la loro morfologia perché nascono con la predisposizione a sviluppare per esempio un muscolo molto molto importante rilevante, e uomini che si allenano in maniera macroscopica sollevando carichi incredibili e non riescono a sviluppare in nessun modo il polpaccio, lì purtroppo restano genetica. Le gambe da merlo. Madre natura purtroppo non è sempre carina con tutti. Non c'è nessun allenamento che tenga. Meglio allenarsi piuttosto che non allenarsi, però concettualmente uno deve avere in mente quale obiettivo può tenere. Il polpaccione invece come lo descrivi, che animale è? Volevo farlo cadere nel tranello, sì. Invece lui non c'è caduto, no, detto. Ma il dottor non casca nei nostri tranelli. Abbiamo recuperato Vittoria da Milano. Vittoria, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo sottolineare e chiedere eventualmente una conferma per questo minerale che è il magnesio supremo, che a mio giudizio dà un grandissimo aiuto ai muscoli. Spero che il professore mi conforti in questo senso. L'ho provato come stessa ed è fantastico. Ma consigliata da chi, Vittoria? Consigliata per conto suo? Da dei giocatori golf che ho avuto ospiti in Sardegna al mio bed and breakfast. Li ho visti tutte le mattine prendersi un bicchiere d'acqua calda, all'interno scioglievano questo cucchiaino di magnesio supremo 2 volte al giorno. Ho provato anch'io, fantastico. Prima di tutto mi ha tolto completamente un dolore molto forte che io avevo sotto le piante dei 2 piedi. Dei piedi. Una fascite plantare. Molto... Faccio il dottore. Vittoria, ecco, guardi, allora questo col magnesio supremo, esatto, ci vuole quello supremo. Allora, dottor Cicero, allora Vittoria, e la ringraziamo perché ci ha chiamato per raccontarci, come spesso accade a Cuore Denari, per darci un suo consiglio, vita vissuta. Allora, ci racconta che cos'è questo magnesio supremo e come può essere utilizzato, se è vero che ha tutte queste virtù. Il magnesio è sicuramente un elemento fondamentale per la salute del nostro muscolo, indubbiamente dipende da che cosa uno ricerca e qual è il problema basale, nel senso che sicuramente il problema è lamentato, cioè il discorso di una tensione eccessiva muscolare anche eventualmente in una fase di recupero post allenamento molto tirato, i crampi e quant'altro rispondono molto bene. Infatti si dice generalmente ai crampi ti manca il magnesio. Esatto. Sì. Rispondono molto bene, nel senso, non in tutti i soggetti perché non tutti hanno quel problema basale, però diciamo che è sicuramente qualcosa di molto buono. La controparte è indubbiamente, se l'idea è quella che mi possa servire nel facilitare un un aumento della massa muscolare, no. Su quello fa purtroppo poco, mm-hmm. Però da quel punto di vista dichiarato sicuramente ha un'indicazione molto specifica. Allora date, mi raccomando, un voto alla vostra muscolatura, usate una metafora, prendete, no? Non so, siete più Woody Allen o più Rocky, adesso non mi vengono degli esempi femminili. Avete più le gambe da merlo o da la donna che ha il polpaccio grosso, un po' tipo la Rosciani, come la possiamo definire? Che animale è? Bella. Vabbè, okay. Andiamo. Michela da Ancona, una anconetana come me, quindi qua ovviamente ha sempre un po' è un po' più privilegiata. Cuore Denari, Michela, buongiorno. Allora, dimagrita, ma non è contenta. Buongiorno, sì, sono dimagrita a seguito di una dieta che ho fatto con una dietologa, però devo dire la verità, sono calata ma i muscoli pure, la ciccia mi dà l'idea che è rimasta. Guardi, Michele, è vero, le diete devono essere ben bilanciate, accompagnate anche di un adeguato esercizio, esatto. Fisico, proprio per non perdere la massa muscolare insieme al, cioè per non buttare, come si dice, il bambino con l'acqua sporca, no? E quindi per il problema della nostra ascoltatrice, che cosa può fare per riprendere un po' tono? Allora, in un minuto, però sì, velocissimo. In realtà, quindi anche una magia deve sicuramente fare. Il movimento è fondamentale per recuperare, ma molto probabilmente potrebbe avere un grosso vantaggio da fare una supplementazione selettiva di solo quei mattoncini essenziali, degli aminoacidi essenziali che vengono spesso a mancare nelle diete molto molto drastiche, perché non si riesce a compensare. E questo è fondamentale perché, se si pensa nel caso estremo, anche gli anziani che sono defedati perché stanno sdraiati per lungo tempo e quant'altro, nella fase di recupero post malattia riescono a recuperare massa muscolare con queste supplementazioni selettive. E che sono di aminoacidi. Aminoacidi essenziali. Rigorosamente essenziali. Sono delle pastigline, che cosa sono? Di solito bustine solubili. Ecco, vanno prescritte dal medico, vanno assunte sotto il suo controllo, oppure rischia a fare il fai da te, ecco. Allora, con gli aminoacidi essenziali non si rischia niente, perché in quanto essenziali il nostro organismo utilizza tutto quello che gli viene dato. E quindi possiamo... Per tranquilli. Si fa un ciclo, dottor Cicero? Normalmente secondo perché io gli ho messo premura, ma la cosa mi piace. Secondo necessità. Secondo necessità, se uno ha recuperato quello che doveva recuperare e riprende una dieta fondamentalmente completa, può anche interrompere. Se invece ha una necessità più prolungata, perché la dieta, ahimè, deve continuare per continuare a perdere di peso, onde evitare di perdere massa magra, che è quella importante, quella muscolare, questo è sicuramente un suggerimento che si potrebbe portare avanti nel tempo. Quindi anche per gli sportivi? Ovviamente, sicuramente, ancora di più per gli sportivi. Allora, adesso noi gli diamo un po' di cioccolato che ci ha portato una nostra amica. No, lo mangiamo. Lo mangiamo anche noi, ecco. E lui ci dice se i muscoli hanno bisogno. Esatto, delle... ma d'altronde, guarda, non ti sembrano degli aminoacidi essenziali queste barrette di cioccolato che abbiamo qui davanti? Quindi noi ci prestiamo alla scienza, delle d'altronde. Delle scorze, buonissime. Buonissime, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Gli amici che sono passati a trovarci qui al nostro stand sono stati davvero tanti, continueranno anche altre trasmissioni di Radio 24. Grazie dottor Cicero per essere grazie con noi. Grazie a voi. Paolo Corleoni, Davide Ciocia, Marco Lombardo, a Milano c'è Carmelo, probabilmente a Laura Vanossi. E basta, noi partiamo. Andiamo che c'è il treno tra poco. Buona giornata.